quelli che già ci sono in partenza, qui non ci sono più le mezze stagioni, e poi a quelli che verranno, che ci saranno, perché vi ricordo che ci sono sempre un'infinità di cose da raccontarci, da dirci, tutte le notizie di attualità. Ovviamente io ne faccio proprio una minima sintesi, perché sono talmente tante le cose che succedono, anche quelle che non vengono raccontate da giornali, telegiornali, giornali radio. Per esempio, noi giornalisti che usufruiamo di questo abbonamento all'ANSA, ne passano veramente ogni secondo tantissimo, quindi di cose ce ne sono molte da dire. Non perdo altro tempo, però vi ricordo che mi fa sempre molto piacere che mi raccontiate quella che secondo voi è stata la notizia della settimana o i fatti che più vi hanno colpito, e ovviamente le vostre riflessioni su queste cose. Il numero verde per chiamare gratuitamente qui a Non ci sono più le mezze stagioni, 800 24 00 24, quindi il numero verde per voi 800 24 00 24. E poi un po' inevitabilmente oggi, insomma, 14 febbraio, un pochino parleremo anche d'amore, no? Che mi sembra, al di là dei luoghi comuni o delle banalità, comunque forse una delle cose, se non la cosa, che da esseri umani ci dà un po' più di vitalità, di piacere, di senso anche alla vita. Intanto saluto subito Paola Severini, la mia ospite di oggi. Paola, buongiorno, salve a tutti. Buon San Valentino. Grazie anche a te, Paola. Giornalista, scrittrice, grande esperta delle problematiche del terzo settore, della solidarietà, ti occupi anche di una rivista, no? Che si occupa di questioni sociali, Angeli. Che anzi approfitto per pubblicizzare, perché è gratuita, che è www.angelipress.org. E lì si possono trovare, quindi, su una specie di agenzia notizie di stampa. Notizie sul terzo settore, un'agenzia quotidiana che fornisce principalmente il Parlamento, per cui noi diamo una newsletter criptata ai parlamentari, e attenzione, visto che normalmente siamo noi che paghiamo i parlamentari, qui si realizza un rovesciamento molto importante, perché i parlamentari, pagando le mie giovani redattrici, possono permettere a noi di angelipress.org di dare gratuitamente a tutti i navigatori del web le notizie sul terzo settore. Senti, quindi il sostegno economico c'è alla fine o dovendo pagare magari? No. Beh, come? Non andiamo neanche in pareggio, devo dirti, ecco, però per noi è un punto d'orgoglio essere i fornitori della Real Casa. In realtà questo ci permette di comunicare con tutto il mondo del terzo settore, soprattutto con il Palazzo. E cerchiamo anche di dare il nostro piccolo contributo al cambiamento, al miglioramento di questo paese. Paola Severini poi ha anche scritto tra i vari libri Le mogli della Repubblica, La storia vista con gli occhi delle donne, visto che per la gran parte i testi, i libri, tutto quanto è stato scritto da mani maschili, da menti maschili. Paola, però, visto che tu appunto ti occupi, e chiedo scusa ancora per la voce, l'inverno continua un po' a gravare anche sulla mia voce, ti occupi di sociali, di solidarietà, di questo Angeli Press, una buona notizia prima di andare sulle tante di attualità, che di buone in realtà non è che sia riuscita a trovarne molto. Tu hai una da darci così ma fresca? Ma bisogna andare sul nostro portale, ce ne sono moltissime. Abbiamo anche un settore che si chiama Buone Notizie. Voglio dirti che secondo me la buona notizia è una cosa generale, che in questo nostro paese, nonostante la crisi, nonostante i problemi che attanagliano tutti, c'è ancora un grandissimo anelito sociale, e noi abbiamo il numero maggiore di strutture di volontariato dell'Europa. Come nazione, sì, in Europa. Beh, insomma, soprattutto questa a Milano, da dove tu trasmetti. Senti, a Milano qua c'è il sole, tra l'altro, lì a Roma da te? Ah, finalmente, oh. Dopo tanti giorni è arrivato anche da noi e fa molto freddo. Quello sì, ma però insomma, abbiamo detto è febbraio, no? Però è una bellissima giornata, credo che sia un regalo per tutti quelli che si vogliono bene. Tra l'altro secondo me questa è proprio la festa dell'amore, non solo dell'amore fra due persone. Tu sai che io quest'estate per un mese ho fatto una trasmissione da voi a Radio 24 che si chiamava proprio Lettere d'Amore, e abbiamo parlato dell'amore in tutte le sue sfaccettature. Ecco. E poi è la festa di tutti oggi. E infatti, Paola, perché io ritengo che non ci siano amori di serie A, di serie B, e questo vorrei che fosse sempre più presente. Nella nostra agenzia poi voi troverete anche un settore dedicato alle sessualità diverse. A poi, cui teniamo moltissimo. A cui teniamo moltissimo tutti, ovviamente, liberamente. Poi ne parleremo. Che cosa volevo chiederti? Poi dopo ci sarà, a proposito di tempo, di meteorologia, avremo anche un appuntamento col colonnello Giuliacci ogni tanto, proprio in virtù anche del titolo che ho scelto per la trasmissione. Non ci sono più le mezze stagioni, dobbiamo aggiornarci col colonnello. È proprio adatto a quest'inverno. Perché mi sembra che al sud invece non se la passino benissimo, specie in Sicilia, ma dopo sentiremo. Sai cosa? Intanto ricordo il numero verde per gli ascoltatori, 800 24 00 24. A proposito della festa di San Valentino, Paola, leggevo che Coda Consa, che è una delle principali organizzazioni a favore dei consumatori, ha lanciato in questi giorni una campagna per abolire questa festa, perché dice ormai è soltanto un business e non più una festa. Io però non sono tanto favorevole. Poi è chiaro che se i fiori costano infinitamente di più, i cioccolatini, le torte, le altre cose, i regali che si possono fare, uno magari si fa venire un po' più di fantasia, di creatività, fa una cosa proprio generata dalla... Tutte queste feste hanno il loro versante commerciale, certo. Però io sono con Antoine de Saint-Exupéry, lo scrittore, certo, del Piccolo, Piccolo Principe, Principe, che dice che i giorni si differenziano uno dall'altro quando ci sono delle occasioni, appunto, speciali. Dei sono riti. D'accordo, sono d'accordissimo anch'io. Quindi non aboliamola. Tra l'altro, va ricordato cambiamola, che... Cambiamola, miglioriamola. Facciamo sì che un significato una un cosa più. Bella, del resto è dedicata a un santo assolutamente speciale. Poi guarda, stamattina leggevo un quotidiano che diceva che la recessione fa bene all'amore, la crisi fa bene all'amore perché si riscoprono le cose più importanti. Dice addirittura, secondo il quotidiano, secondo il Financial Times, il terremoto finanziario ha minato le certezze delle borse, ma in realtà ha fatto crescere queste, quindi queste meno consumismo, comunicazioni fra gli uomini. Fra gli uomini. Ma dicevo che la festa di San Valentino, Paola, lo dico alle ascoltatrici e agli ascoltatori, in realtà in molti paesi del mondo è una conquista, anzi un sogno, perché ancora veramente in molti paesi, e non solo quelli islamici, cioè non ci si può baciare minimamente in pubblico, finisce in galera, certo. Ci sono anche i pestaggi, ma anche in India, ma anche gli ebrei ortodossi, quelli conservatori. Per esempio tra persone dello stesso sesso. Oh, quello, ma quello anche in Italia. Diciamo che in Italia non ti mettono... No. No, ma non è vero, ma in Italia, guarda, io sono una molto positiva, le cose sono assolutamente cambiate. Abbiamo avuto un parlamentare transgender, la mia amica Vladimir Surya. Insomma, non è più come prima. Adesso però stavo andando a cercare, io dico sempre che baciarsi in pubblico è politica, sia per quanto riguarda le persone eterosessuali, no? Perché comunque certo. è diffondere energia positiva, positività, con tutto lo schifo, possiamo dire, che c'è in giro nel mondo e che sentiamo quotidianamente. Quella è politica, e ancora più io dico per le persone dello stesso sesso, perché ci si abitua tranquillamente a capire che non hanno le antenne e che è amore. Ovviamente anche quello allo stesso livello, e quindi più li si vede meno si ha paura anche di un gesto che in realtà è molto bello. Vedere le persone che si baciano di qualsiasi sesso, io lo trovo bellissimo che si abbraccino. E a questo proposito leggevo che a Vienna hanno organizzato per oggi questa manifestazione, Amnesty International, che ha organizzato Kiss In sulla piazza Santo Stefano di Vienna. Ci sono baci in massa nel centro della città, con benedizione anche delle coppie gay nel Duomo di Santo Stefano. E perché ha organizzato questa cosa Amnesty? Perché dice che per gli innamorati di ogni orientamento sessuale sono invitati a abbracciarsi e baciarsi. Vuole ricordare che in molti paesi del mondo, appunto, l'omosessualità è tuttora considerata un reato. E lo stesso succede in Italia oggi. Una manifestazione organizzata invece da Arcigay si chiama Crossing Kisses, cioè baci agli incroci, e l'iniziativa avrà luogo in varie città: Genova, Padova, Bologna, Firenze, Grosseto, Roma, Napoli. Ci si bacia sia coppie omosessuali che etero aspettando il verde al semaforo. Ecco, quando c'è il rosso, mentre non si può attraversare, si spende utilmente e piacevolmente il tempo così, baciandosi. Che dici, Paola, di queste iniziative? Tutte queste manifestazioni hanno un senso proprio per cambiare l'atteggiamento della gente. Però ti ripeto, io penso che da noi ci sia una bellissima accettazione delle sessualità diverse, dell'amore. Forse le persone diverso. Sono più avanti della politica, possiamo dire questo. Ma questo in tutti i campi, mia cara Roberta. Guarda, io che frequento un mondo, tante volte scherzando, perché poi proprio noi che siamo in qualche modo i protagonisti e i comunicatori di questo mondo sociale abbiamo il diritto anche di scherzare e di fare delle barzellette su di noi, certo. Come poi i carabinieri. Dico sempre che io lavoro sono la cassa del supermarket delle disgrazie. In realtà questo è il mondo più bello che c'è, quello delle differenze, dei problemi, dell'emarginazione, e vedo che non solo il paese reale, usando un termine abusato purtroppo, ma è l'unico che c'è, è molto più avanti del mondo della politica, ma è migliore, sta lavorando, sta già superando la crisi. Io vedo come l'ultimo rapporto delle UISP che la crisi è già, siamo già a metà del guado. Dici che è già così positiva? Sì, assolutamente sì, e lo stimolo viene proprio dal terzo settore, che ha trovato soluzioni interessanti, importanti. Pensa a quello che ha fatto il vostro cardinale di Milano, pensa al lavoro che fa la Caritas, a tutte le associazioni di volontariato che non solo rispondono a dei problemi ma costruiscono ricchezza. Bisogna cominciare a vederla in questo senso. 800 24 00 24 il numero per voi ascoltatrici e ascoltatori, se volete intervenire sull'amore, mi pare che oggi sia più che legittimo, sarebbe legittimo in ogni momento ma in particolare oggi, oppure sui tanti argomenti di attualità. Io adesso faccio un brevissimo elenco anche per sottoporli a Paola, ma poi scegliete voi tranquillamente una qualsiasi notizia che ritenete di dover di nuovo riportare all'attenzione. I funerali di Eluana, naturalmente, anche se se è possibile, magari proprio per rispetto della famiglia, a questo punto, dopo tanto clamore, cercherei di osservare un po' di silenzio, ma vi lascio ovviamente sempre la massima libertà di scelta sulle notizie. Poi la crisi economica, ne abbiamo parlato, le elezioni in Israele, le polemiche sulla Costituzione e la manifestazione del Partito Democratico, la manifestazione di ieri della CGIL, il G7 a Roma, è stata celebrata poi la giornata del ricordo per le vittime delle foibe, le dimissioni di Mentana, anche questa... Questo fatto ha creato, no, molto, molto subbuglio, molte polemiche, perché Canale 5 ha deciso, da TV commerciale, di dare la priorità al Grande Fratello la sera in cui è morta Eluana, anziché appunto mandare immediatamente in diretta Matrix, come invece su Rai 1 è successo per Porta a Porta. La morte di Bulgarelli, il calciatore, chi se lo ricorda? Ecco, tra sia ascoltatrici che ascoltatori, chi volesse parlare di Bulgarelli? Una figura di un calciatore di altri tempi che purtroppo non si ritrova più. Due adolescenti diventati, a proposito di amore, in Gran Bretagna diventati genitori. Lui ha 13 anni, lei 15. Tu, Paola, cosa ne pensi di una cosa del genere? A parte che la Gran Bretagna è proprio il paese delle gravidanze adolescenziali. Bisogna mai capire perché è proprio là. Bene che da noi non è. Vedi quanto siamo più avanti della Gran Bretagna. Da noi non è neanche il paese dei bambini che si picchiano e che si uccidono. Quindi stiamo molto meglio. Da noi la rete familiare tiene. E questa è una cosa importantissima. Sai, il mio caso è un po' diverso dagli altri, perché io mio primo figlio l'ho avuto a 17 anni. Io ho un figlio di 35 anni e ne ho 53. Aspetta, siete quasi coetanei. A me questo discorso non me lo puoi fare. No, scherzavo. Beh, l'hai sentito quando l'hai fatto. Un caso particolare. Poi ne parliamo di questa cosa, perché Paola Severini ha anche una storia molto particolare, insomma, che vale la pena di raccontare. Ma intanto ci sono, a volte, lo sapete, le interferenze. Riflessioni da Marte. Gli esseri umani si trovano costantemente, insomma, un po' fisiologicamente, a avere problemi di valutazione, così come è successo per esempio agli insegnanti della scuola elementare Longhena di Bologna. Avete sentito che, ritenendo di non poter valutare i bambini, come prevede la riforma Gelmini, con i voti numerici anziché con i giudizi, per protesta hanno dato nelle pagelle il 10 politico a tutti i bambini, con grande felicità dei piccoli e grande disappunto della ministra. Sempre a proposito di valutazione, non mancano mai gli stupratori domiciliati ogni settimana. E poi mi viene in mente l'inquilina di un reality d'appartamento che ha valutato di dover tirare un bicchiere a un coinquilino, forse un po' maleducato, valutando male la mira, però, perché non l'ha preso, ma valutata nel suo gesto e nell'esito di questo gesto più importante nella logica televisiva di un doloroso caso nazionale. L'anchorman più riccio d'Italia se l'è avuta male, insomma, ha dato le dimissioni, e non è chiaro se lo abbia valutato come un miope sgarbo all'utenza o alla sua persona. In ogni caso, qualche imprecisione nelle valutazioni ce l'ha anche chi prevede prima che l'Italia, nel turbine della crisi economica, se la caverà meglio di altri paesi, per poi valutare invece preoccupato che la medesima crisi ha dimensioni ancora non del tutto definite. E come valutare poi, in questa crisi di cui sopra, con il PIL ai minimi storici e la cassa integrazione, quel milione di euro forse per lo smoking di platino, bello e pronto per il presentatore di Sanremo? Hai colto qualche spunto, Paola Severini, tra tutte le cose e che mi hai detto? Come no? Che ti posso... Tu sai, mia cara Roberta, che martedì finalmente finirà questa telenovela della Commissione di Vigilanza Rai. Sì. Perché dopo l'elezione di Zavoli, quindi Villari, che il grande Sergio Zavoli, che io mi onoro di aver conosciuto da ragazzina e che è stato uno dei miei maestri, ho lavorato con lui ad un festival che si chiamava Oltre la Norma, che è stato il primo festival, lui era il presidente, ero giovane direttore, il primo festival proprio sul cinema delle diversità, e si teneva a Pesaro. Sergio Zavoli ha fissato la riunione, e da questa riunione di martedì, credo a mezzogiorno, quindi il 17 a mezzogiorno, noi avremo finalmente il grande parto della nuova il nuovo consiglio di amministrazione. Che fatica, della RAI. È una fatica straordinaria questa. Sì, c'è voluto in Italia per fare una cosa di ci una si riflette bene, ecco, ci vuole tanto tempo. Allora, ecco, la cosa che mi preoccupa però è che purtroppo dai boatos, dalle notizie che si sentono a Roma e che probabilmente saranno confermate, noi avremo una commissione, un consiglio di amministrazione della RAI non molto diverso dal precedente, e soprattutto i consiglieri saranno espressione puramente politica e non risponderanno sicuramente alle necessità della prima azienda culturale italiana. Questo ormai da tempo però, no Paola? Sì, si parla di riconferme di persone che sono state lì per 4 mandati e noi non ci siamo accorti del lavoro, noi che vediamo la televisione, che hanno fatto questi signori, che saranno pure bravissimi nel loro settore, ma rispetto, insomma, non hanno dato una grande prova. Riflettiamo, ecco, Paola ha lanciato quindi un altro spunto molto interessante che riguarda appunto i fatti di questi ultimi giorni. Eccoci qua, sempre Roberta Giordano con voi, tanti i fatti su cui soffermarsi, di cui discutere, 800 24 00 24, numero verde per lasciare a voi libera parola su qualsiasi argomento, e quindi comincerei a dare la parola a Riccardo da Pavia. Riccardo. Grazie, buongiorno. Benvenuto, buongiorno, grazie a te. Dunque, io volevo parlare brevemente della ricorrenza delle foibe, sì. sulla tragedia delle foibe. Sì. Ho notato che c'è stato un po' è stata tiepida la ricorrenza, cioè la celebrazione della ricorrenza è stata molto tiepida rispetto a quella che ci ha preceduto di poco, della famosa giorno della memoria degli ebrei, sì, no? Per 2 giorni prima e per 2 giorni dopo di quella ricorrenza abbiamo visto film, interviste, memoriali che conosciamo a memoria, la famosa scritta di Auschwitz sopra l'entrata dell'Arbeit, eccetera eccetera, abbiamo visto un sacco di cose fino a diventare quasi ebrei anche noi, ecco. Quel giorno invece hanno fatto vedere i telegiornali soltanto un breve intervento del capo dello Stato, il quale fra l'altro ha accennato al solito fascismo come se ci fosse una causa e un effetto. Lì hanno buttato nelle foibe dei bambini, dei vecchi, degli italiani che non erano fascisti, questo è dimostrato storicamente. Non ho visto un'intervista, non ho visto un film, non ho visto niente, ma è possibile che la guerra civile che dura da 60 anni in Italia strisciante continui a questo punto di non assumersi le proprie responsabilità? Se i comunisti erano d'accordo con quelli di Tito per buttare nelle foibe i nostri compatrioti, che lo dicano, che venga fuori questa verità. Ma no, perché non è possibile mettere che Ciampi ha messo una festa che poi non viene celebrata degnamente, non è stata celebrata degnamente. Riccardo, probabilmente questo sai che è un fatto su cui la sensibilità si è un po' più accentuata negli ultimi tempi, no? Piano piano la nostra storia si tirano fuori altre cose che forse erano passate purtroppo un po' più sottotono. L'eccidio degli ebrei a livello internazionale e mondiale è stato un fatto che ha colpito effettivamente tutto il mondo, questo che ci riguarda estremamente da vicino è stata una grande tragedia, forse appunto non ha la tradizione nella memoria e nel ricordo che ha avuto la Shoah, ma credo insomma che col tempo si darà sempre più importanza naturalmente anche questa tragedia dei tanti italiani che per motivi etnici politici alla fine della seconda guerra mondiale appunto vennero massacrati in queste cavità carsiche, no? nel Friuli Venezia Giulia. Riccardo, volevi aggiungere qualcosa? Sì, volevo dire semplicemente che le disgrazie non si dovrebbero misurare dalla loro eco internazionale, cioè no, chiaramente questo non sappiamo ancora quale può essere il motivo, non sappiamo ancora quanta gente è stata infoibata Il numero esatto non lo conosciamo ancora. E soprattutto io devo ricordare un episodio per me squallido, e lo devo ricordare a chi mi agli ascoltatori. Vent'anni fa o 15 anni fa, al momento del disfacimento della Jugoslavia, c'è stato un nostro Presidente della Repubblica, di cui non faccio il nome, che è corso immediatamente a Zagabria e a Lubiana per riconoscere prima del mondo intero quei due stati, che sono responsabili di questa scriteriata vendetta verso gli italiani, che avranno sì occupato quei paesi, ma a un certo punto non hanno fatto questa scelleratezza che hanno fatto loro. E certo, non hanno restituito le case, non hanno restituito i beni a quelli che l'hanno buttati fuori. E quindi questo Presidente è andato là e l'ha riconosciuti subito. Ma io non li farei entrare nemmeno in Europa questi qui. No, Riccardo, chiarissimo il tuo concetto, la tua rabbia si sente, però si dice insomma sempre più frequentemente che le colpe dei padri non devono ricadere sui figli. Si cerca col passato ovviamente di fare sempre i conti, ma se continuiamo, bisogna ricordare, bisogna capire, conoscere fino in fondo, però impedire a questi paesi poi di essere riconosciuti in questo momento sembrerebbe di protrarre poi l'ostilità, forse non era la cosa più opportuna. C'è Roberta da Cagliari. Roberta, ciao. Oh, dalla Sardegna, lì come ve la cavate col tempo? In questo allora, ieri ha nevicato un pochino. In Sardegna? Sì, sì. E avanti anche all'isola della Maddalena. Ah, però non me lo immaginerei mai l'isola della Maddalena con la neve, però. Ma neanche io, comunque era dall'84 che non nevicava. Così mi diceva una cliente mentre eravamo in diretta telefonica. Non parlavo quasi 30 anni, quindi un evento, grazie di averci informato. Oddio, bisogna vedere sotto quale ottica lo si vuole valutare, se è un evento o eventualmente... E che non ci sono più le mezze stagioni, vedi, le stranezze del tempo che cambia, è questo o no? Ma... No, cioè diciamoci la verità, proprio al riguardo dell'argomento che volevo trattare parlando praticamente della giornata dell'amore, se così si vuole, se si vuole. Si vuole. Tutto ciò che c'è attorno è mera strumentalizzazione, a mio avviso, per un solo motivo. Molte volte l'amore è quello che non grida, quello che non vedi, diciamo, apertamente, ma è qualcosa che è un fatto oggettivo che col tempo sempre permane. Ma questo a questo riferimento dico che l'amore può essere infinitamente grande, di diverse forme, certo, come quello di questi due ragazzi che inconsciamente comunque hanno dato forma a una vita. In Gran Bretagna, dicevi, due adolescenti. Sì. Esatto. Speriamo che duri questo amore. Però molto spesso lo facciamo anche noi adulti. Senza, diciamo così, c'è chi lo cerca, c'è chi invece non lo cerca, anche quella è una forma d'amore. Ciò che io esprimo, in quanto lo vivo come lavoro, l'amore, perché io vado a rintracciare quelli che lo fanno clandestinamente, ecco. In che senso? Puoi spiegare un po' più chiaramente, Roberta? Praticamente, visto che la società impone un'etica, sì, che è cattolica, che cosa sei, una poliziotta del buon costume? Di cosa sei? Le forme d'amore clandestine generalmente sono quelle tra persone che effettivamente si amano, scoprono magari anche a 70 anni di essere innamorate e magari gli hanno amanti, fatto gli amanti. Esatto. Ah, sei un'investigatrice privata allora? Mi occupo di questo. Hai visto, ci siamo arrivati. però senza esprimere nessun giudizio, per carità, perché comunque non è dato a nessuno. No. Ogni storia poi è a sé stante, non giudichiamo in questo momento, appunto, chiaramente. Certo, è un lavoro particolare il tuo. E quindi questa cosa ti porta a pensare o a capire della vita e dell'amore? Allora, della vita e dell'amore, prima di tutto che impera comunque anche nelle forme più, purtroppo, molto spesso anche più... subdole, cioè magari chi ne sta fuori le vede tali, in realtà magari chi le vive effettivamente prova quelle emozioni. Sì, lo dicevamo prima anche con Paola Severini, insomma, che ogni amore ha la sua intensità, la sua forza, e che non ci sono amore di serie A, di serie E può essere di qualsiasi genere, per un figlio, per un marito, molto ecco, questo via via comunque sta andando scomparendo, perché e questo è un messaggio che io mando a tutti i mariti, ma anche alle mogli: non date per scontata la donna che avete a fianco. Certo, mai. Mai per scontata, perché lì è la sua morte, nel senso che la donna ha insito in sé questa voglia sempre di amare, di sognare e di essere capita in questo senso e ricambiata. Qualora le venisse a mancare un sentimento di questo genere, incomincia ad ammalarsi, e non è una mia teoria, è semplicemente una manifestazione, diciamo, sintomatica. No, è così, Roberta, infatti dicono sempre più spesso gli esperti che l'amore è la più potente terapia per la salute, per le persone. Roberta, mi ha fatto volevi aggiungere proprio una piccola cosa, perché siamo un po' in ritardo? Stretti, stretti, come dite voi in gergo. Sì, semplicemente questo, che si viva più di sostanza, che non vuol dire mancanza di forma, ma l'una non esclude l'altra, però se la si esclude l'una o l'altra, allora non si è realmente felici. Siamo d'accordo. Roberta, tu sei felice nell'amore, se posso chiedertelo? Ma io ho un grandissimo amore che è mia figlia, ho un grandissimo amore che è mio marito, allora, con tutti i problemi, diciamo, diciamo della vita che scorre. Esiste una vita senza problemi? No, e neanche un rapporto in genere senza problemi. Quindi possiamo stare tranquilli che sei abbastanza felice, ma abbastanza serena, Roberta. L'importante è quello, soprattutto. Grazie. Va bene. Ciao Roberta. Me lo auguro anche a voi, buona giornata. Grazie mille. Salutaci. Ciao. Cagliari, la neve inconsueta per la Sardegna. Ancora molti ascoltatori e ascoltatrici al numero verde 800 24 00 24. C'è Paolo da Novara. Paolo, buongiorno. Buongiorno a te, Paolo. Ho piacere risentirla, perché mi ricordo di un vecchio programma serale. Sì. Tanti programmi, tra cui Diario. Sì, ti ringrazio, Paolo, di questo ricordo. Volevo dire, sul caso della povera Luana, è chiaro, sì. No? Noi in Italia purtroppo ragioniamo sempre di pancia, sia a livello politico che a livello personale. Perché sì, dispiace, cioè, con tutti gli anni che ci sono, sembra un paragone assurdo quello che sto facendo, però hanno trattato quel caso lì come una frana, perché interviene una frana, si sa che quella frana viene giù e non si fa nulla. E lo stesso con queste povere persone, non si è mai fatto nulla, si cerca di fare qualcosa adesso, quando il fatto è accaduto. Siamo in Italia, purtroppo è così. Cos'altro non posso dire. Grazie Paolo, grazie. Grazie molto, buon pomeriggio, buon sabato. Eccoci qua sempre insieme, Roberta Giordano con voi, il numero verde sempre disponibile per i vostri commenti sui fatti d'attualità, per la vostra scelta della notizia della settimana, per parlare d'amore in particolare oggi. 800 24 00 24, ci diceva prima questa ascoltatrice, che abbiamo poi scoperto essere un'investigatrice privata, che ha anche il compito di pedinare gli amanti, che tutti gli amori, lo dicevamo anche prima, insomma, hanno uguale dignità, e che poi dietro a volte delle facciate, delle apparenze, insomma, bisognerebbe capire molto di più per conoscere, per poter giudicare. Leggevo ieri che persino il telefono azzurro, che sapete è stato creato da anni per accogliere le telefonate dei minori che sono in pericolo, che sono a rischio, che vengono maltrattati, ha detto che riceve molto in questi giorni anche le telefonate di ragazzine e ragazzini con le loro pene d'amore, no? Perché anche naturalmente a quell'età, a livello diverso ovviamente, però ci sono un po' questi patemi d'animo, no? Secondo l'associazione, le telefonate provengono più dalle ragazze, tanto per cambiare, che non dai ragazzi. Il 79% dei casi è fatto di ragazzine, prevalentemente si tratta di ragazzine, appunto, che hanno un'età compresa tra gli 11 e i 14 anni, per capire, insomma, tante sono le forme, le età, le stagioni, le fasce, le modalità. Paola Severini, tu hai una storia, dicevo, molto particolare. Tu sei stata, si può dire, moglie di Antonio Guidi, ex ministro della Famiglia e Solidarietà nel primo governo Berlusconi, no? Quindi Antonio Guidi, paraplegico? No. Spastico. Scusami, spastico, sì, sì. Tetraparesi spastica, cioè un trauma da parto. E tu l'hai conosciuto quando? Io l'ho conosciuto che avevo 14 anni. E lui? E lui ne aveva 25. E ti sei innamorata? E mi sono innamorata. Lui si stava laureando in medicina, lui è stato il primo medico con questo tipo di minorazione in Italia. E per lui non è stato semplice. Certamente. Ha dovuto affrontare una grande battaglia, e io mi sono innamorata perduratamente, creando tutta una serie di problemi alla mia famiglia. La mia mamma e mio papà, che non ci sono più, tutti e due poverini, dal loro punto di vista assolutamente hanno avuto paura che tu avessi erano difficoltà. Contrari. E io sono stata così testarda che l'ho voluto a tutti i costi sposare. Mi sono sposata in chiesa e ho avuto una dispensa papale, perché non ci si può sposare in chiesa con meno di 18 anni, e ho avuto anche un'autorizzazione pubblica, perché la stessa cosa è valida per lo Stato. Quindi è un'esperienza tua speciale anche di un amore. Grande amore finché è durato tanti anni, abbiamo avuto tre figli insieme. E poi è finito. E poi è terminato, sì. Come succede sempre più spesso. Come succede in tanti casi, in milioni di casi, nel nostro paese. Io nell'introduzione del mio libro parlo proprio di tutto, del fatto che i matrimoni si rompono. Purtroppo, ma insomma forse nella fisiologia possiamo dire, non so neanche più come. È molto difficile nella nostra società, nelle società che ci hanno preceduto si moriva molto più da giovani e quindi era anche fisiologico che i matrimoni durassero di più. Adesso la vita si è allungata, le opportunità, esatto, le scelte, insomma ci sono stimoli, diverso diversi, modo di vivere. Sì. Certo. E poi c'è un altro fatto che secondo me è molto importante, che gli uomini hanno paura delle donne, sono gli uomini quelli che sono più fragili in un rapporto, su questo non ci sono dubbi, le donne tengono il punto di più. Devo dire con franchezza che se nel mio caso è stato mio marito a scegliere di rompere questo rapporto, probabilmente essendo io una persona che tiene moltissimo alla famiglia io avrei proseguito, ma non si può dire, sai, magari poi dopo sarebbe successo a me. Chi lo sa. Comunque, insomma, questa è una parte della storia di Paola Severini, scrittrice, giornalista, esperta delle problematiche del terzo settore. Una parte molto importante della mia vita, che mi ha dato tantissimo, perché io ho conosciuto tutto il mondo della disabilità. Ti ha permesso di entrare magari in una dimensione che non avresti conosciuto così a fondo se non fossi sposato. Certo, il mondo dei diritti, delle differenze, perché poi, vedi, da questo mondo io sono arrivata a tutto il mondo delle minoranze. Compreso, io avrei voluto anche rispondere al signore che parlava delle foibe, sì, e diceva ci sentiamo, certo, diventiamo tutti ebrei. Il mondo dell'ebraismo e delle minoranze religiose, noi lo seguiamo con la nostra agenzia, è molto difficile paragonare una persecuzione ad un'altra persecuzione. Devo dire che invece forse lui non è stato tanto attento, ci sono state moltissime trasmissioni televisive e radiofoniche che hanno parlato delle foibe, anche quella dei colleghi di Canale 5, che i colleghi di Terra, che hanno fatto, sì, una trasmissione bellissima, sì, e che, sì, ha avuto un grande indice d'ascolto. 800 24 00 24, questo è il numero aperto con libertà alle ascoltatrici e ascoltatori. C'è Francesco da Firenze che ringrazio per la pazienza. Francesco, scusami, so che sei da un po', insomma, in attesa. Prego. Pronto? Eccoci. Ah, salve. Intanto volevo ringraziare Radio 24 perché vi ascolto spessissimo. Non volevo fare, grazie, un intervento sull'amore, perché comunque non ho mai festeggiato per mia fortuna il San Valentino, perché penso che se una persona si ama tutto l'anno, in tutto sommato. Questo naturalmente, però a volte ci sono dei promemoria, diciamo, dei post-it, come si chiamano quelli bigliettini gialli, no? Un giorno in particolare, però sempre con libertà, uno può tranquillamente non festeggiarlo, diventa un'occasione se vuoi per parlarne, ecco, adesso non stiamo distribuendo cioccolatini, però. Questo di sicuro è anche magari un po' per specularci alle volte. A volte sì. Qual è il tuo argomento, quindi? Volevo rispondere brevemente all'argomento delle foibe, perché sì, ora le di Riccardo, sull'ascoltatore di prima. Sì, era Riccardo da Pavia, sì. È Riccardo da Pavia. Mm. La questione è questa. Ora, mi dispiace, non so parlare molto bene in pubblico, ma tra l'altro non ne sono per niente abituato. Beh, è un'occasione, sentiamo. Sento tranquillo, non ti preoccupare, Francesco. Quello che volevo dire è semplicemente questo. L'odio chiama odio e le foibe sono state sicuramente una grande tragedia, ogni singola morte è una tragedia, su questo vino si piove. Nelle foibe si pensa siano morti da migliaia a decine di migliaia di persone, ovviamente la maggioranza erano italiani. Quello che non viene detto, perché poi di trasmissioni sulle foibe in realtà ce ne sono state tantissime, è che gli italiani sono stati direttamente responsabili di un grandissimo massacro che è avvenuto nella Jugoslavia, che è stato il massacro che ha interessato soprattutto i serbi e altre minoranze della Jugoslavia. Certo, poi finiscono sempre di mezzo gli innocenti, diciamo, no? Poi, ma infatti la tragedia è questa, perché poi queste grosse generalizzazioni che avvenivano per il razzismo della Seconda Guerra Mondiale e per favorire alcune minoranze invece che altre, nella Jugoslavia della Seconda Guerra Mondiale non è che sono morte migliaia o decine di migliaia di persone, Si pensa che di ortodossi siano stati uccisi tra 400.000 e 900.000 persone e tra l'altro alcuni per mano direttamente di italiani che operavano nel suolo jugoslavia, nel suolo jugoslavo, perché comunque c'era un'occupazione italiana in Jugoslavia, ma la maggioranza sono stati per mano degli Ustascia, che erano una milizia cattolica croata. Una storia sì complessa, che merita ancora attenzione, merita ancora di essere più approfondita. Merita più che altro di non essere così semplificata, perché quello che volevo solamente dire per concludere è che l'odio si chiama odio e gli Ustascia furono addestrati in Italia. Uno dei campi di addestramento degli Ustascia era qui vicino a Siena, dove poi ora vivo attualmente, e loro sono stati responsabili più direttamente sicuramente degli italiani della maggioranza di queste morti. Francesco, dimmi che cosa fai nella vita? Sono uno studente di medicina. Sei giovane quindi, giovane studente di medicina. Che, sì, in cosa ti specializzerai? Hai deciso già che è un po' presto. È un po' presto. Va bene. Beh, insomma, allora in bocca al lupo, buona fortuna per i tuoi studi. Grazie Francesco. Grazie, arrivederci. Grazie, ciao. E a questo punto sentirei invece, parlavamo di tempo, non ho chiesto a Francesco che tempo facesse a Firenze, ma ha dato idea di sole, non so perché, io a Firenze me la ricordo sempre col sole. Colonnello Giuliacci? Sì, buongiorno Roberto, un saluto agli ascoltatori Radio 24. Eccomi ciao, qua. Colonnello, no, sono sull'attenti. Lui, un colonnello non può che essere sull'attenti, ma anch'io sono sull'attenti però di fronte a un colonnello. E il sole che noi vediamo a Milano e a Roma, però non so bene al sud come se la passino, ci può già far illudere magari di anticipo di prima niente? Allora, vediamo che cosa ci aspetta nei prossimi giorni, direi per tutta la prossima settimana. Il freddo sarà l'elemento dominante, è vero che su tutto il nord, sulla Toscana, Lazio, l'Umbria occidentale, in questo momento splende il sole, però al mattino fa freddo, e dire chi si fosse alzato questa mattina alle 6 in qualunque località del nord Italia, la brina sulle sopracciglia, 3-4 gradi sotto zero, quindi anche tu pensa Roberto stamattina, hai detto oddio che freddo che fa, caspita. Poi cioè, essendoci il sole nelle ore centrali si mitiga, così. Ma anche in Umbria e nell'Anzia, dove arrivano questi venti gelidi da Balcani, c'è il sole, ma poi non certo si può dire che in questo momento si avvertano temperature. Fa freddo in tutta Italia, al centro-nord, cioè al nord sulla Toscana, Umbria, Lazio, fa freddo soprattutto mattino, sul resto d'Italia fa freddo mattino, pomeriggio, sera e notte. Quindi e freddo, non c'è carenza di freddo, su quello è una garanzia. Quindi, sì. Quindi freddo è garantito, c'è e ci sarà, tanto per essere espliciti. Sì. Per un'altra settimana, con fase più o meno alterne, qualche momento in cui ce n'è di meno, qualche momento che ce n'è di più. Paradossalmente venerdì c'è un momento, venerdì prossimo momento in cui ce ne sarà di più, nel senso di tornare a essere un momento freddo. Oltre al freddo che cosa ci sarà? Io aspetto che, mi aspetto che tu mi voglia chiedere. Beh, oltre al freddo era allora, proprio quello che le volevo chiedere, sì. Ecco, visto, avevo previsto, adesso sono esperto in previsioni. Allora, ci saranno tanto nuvole per tutta la settimana su Marche, Abruzzo, Molise e al sud, sud e est. Questo quasi in permanenza. Queste nuvole saranno accompagnate anche da nevicate deboli, per fortuna, fino a quote molto basse su Marche, Abruzzo, Molise e al sud, addirittura potrebbe nevicare oggi e domani lungo le coste dell'Abruzzo, del Molise, anche le coste del Barese, del Foggiano, no? Nevicate a quote molto basse comunque sulla Calabria, sulla Sicilia e sulla Sardegna. Poi hai sentito che è caduta la neve sulla Sardegna? Sì, parliamo ovvio col freddo, la neve, perché questa fase di maltempo, diciamo, per vari motivi sta colpendo soprattutto il medio Adriatico e il sud, quindi il nord sì, il freddo ma senza fenomeni, ecco, quindi un freddo asciutto potremmo dire, no? Quindi un freddo non fenomenale, senza fenomeni, ecco. Poi lunedì direi il tempo tende a migliorare dappertutto, però a parte la Toscana dove ancora vi saranno delle piogge, Toscana e Sardegna ancora nelle piogge, la giornata di lunedì, ma il tempo migliora, però resta il freddo, ho detto che ci sarà per tutta la settimana. E questo è un concetto che c'è chiarissimo. Ecco. Ecco, martedì arriva una prima perturbazione e già riporta piogge su quasi tutte le regioni centrali, sulla Calabria, sulla Sicilia, isole maggiori, di nuovo le nevicate fino a bassa quota, questa volta lungo le coste, non lungo le coste, nevicate fino a bassa quota ancora sulle regioni centrali, cioè Marche e Abruzzo, qualche nevicata anche in Calabria, in Campania. Beh, l'inverno perdura, possiamo dire che perdura per una settimana ancora. Potremmo andare avanti così, un momento critico, adesso saltando un po', se non posso descrivere giorno per giorno, se no... Minuto per una telecronaca, una radiocronaca. Ecco, appunto. Venerdì c'è un deciso peggioramento, potremmo vedere la neve anche... in Emilia, chissà che non nevica a Bologna, punto interrogativo, te lo dico 7 giorni prima, per cui se non avviene non facciamo i soliti brontoloni. Adesso me lo scrivo, Colonnello Giuliacci dice che a Bologna... Ha detto neve a Bologna, poi non c'è stata. Beh, l'ho detto 7 giorni fa, insomma, ecco, voglio dire. Però passeremo vicino a me. Qualche nevicata fino a bassa quota sulle Marche, l'Abruzzo nevicherà probabilmente all'Aquila, a Campobasso, ecco, fino a bassa quota su tutto l'Appennino. Insomma, per dire, questo freddo insisterà per tutta la settimana e poi inizieremo a parlare di neve, gelata al mattino al nord, quindi copriti bene Roberto, mi raccomando, sì. Non vogliamo che un sabato capi dice Roberta non c'è perché si è presa il raffreddore. Porca miseria, spero proprio di no, anche se continua un po' questa voce a soffrirne, però poi ci riaggiorniamo con Nello Giuliacci magari per la settimana prossima, chissà che nella sua sfera di cristallo non estrapoli delle notizie finalmente. Guarda, di anticipazione se me lo chiedi tu di migliorare il tempo ce la metto tutta. con la forza del pensiero, grazie Colonnello Giuliacci, buon grazie. Tempo a te. Ciao. Grazie anche a te, un saluto a te e agli ascoltatori di Radio 24. Ciao, ciao. Ciao Colonnello, e sempre il numero verde 800 24 0024, volevo sentire, c'è Maria Laura da Roma. Maria Laura. Tesoro mio, ma quale voce, appena ho sentito la trasmissione ho detto ma questa è Sherazad, l'avevo perso. Alla sera qualche volta ti sentivo nei giornali radio, poi basta, dico ma non è possibile che l'abbiano messa tanto da parte, mentre giravo i canali, che io vado un po' dappertutto, Rai e voi o altro, dico eccola qui, come non la devo salutare, perché a volte come è una cosa bellissima. Maria Laura, allora, dove eravamo? Cosa volevi parlare, Maria Laura? Intanto grazie di questo entusiasmo. Pronto? No. Maria Laura, niente, si è... L'entusiasmo era tale che... Niente, si è commossa. Vabbè, la richiamiamo allora, Maria Laura. Forse non aveva capito che ci dava un appuntamento subito dopo. 800 24 0024. Io volevo chiederti, Paola Severini, tu le mangeresti 20 mele al giorno, tutti i giorni? Perché pare, ma tutto quello che scrivono i giornali è allucinante. Io devo dire che dovremmo leggere con un pochino più di, vero, di discernimento. Perché c'era ieri un titolo, se non sbaglio, su Repubblica, non c'è più la frutta di una volta, un po' copiandomi secondo me, ha sentito, certo, non c'è più le mezze stagioni. Devi chiedere il copyright, Roberta. Perché era un allarme in realtà lanciato da uno scienziato in Gran Bretagna, un nutrizionista, che dice, questo Dale Pinnock, dalle pagine Dale Express, che dice le raccomandazioni di mangiare 5 porzioni tra frutta e verdura ogni giorno è vecchia di 40 anni, quando il terreno era più ricco di vitamine, di sali minerali eccetera. Ora per colpa delle coltivazioni intensive, l'aumento dell'inquinamento, è vero, i pomodori, a parte la frutta, anche di plastica i pomodori, io non li mangio più, non mi piacciono, e la frutta anche non sa di niente. Mentre qualche nutrizionista italiano, per esempio Cannella, dice che in realtà è un po' esagerato, ci vuole misura in tutto 20 mele al giorno per avere le sostanze nutrienti necessarie, è un po' esagerato, è vero che c'è l'inquinamento, che i terreni sono più poveri per le coltivazioni intensive, ma effettivamente sono un po' troppe, eh? Non so chi ce la farebbe a mangiare 20 mele al giorno. E poi Paola, ci vuoi, a proposito di amore, della trasmissione che hai fatto anche su Radio 24, hai qualche lettera d'amore lì? Guarda, io ne avevo tenuta da parte una proprio da regalare agli ascoltatori oggi, che è una delle mie preferite. Tu calcola che ne abbiamo analizzate circa 80 nel mese di agosto, quindi tantissime, che andavano dalle lettere d'amore di Gramsci a le lettere d'amore che mi erano state mandate dagli ascoltatori. E quindi grandi personaggi, gente comune, ma l'amore è sempre... Gente comune, sì, perché di fronte all'amore siamo tutti uguali. Certo. Voglio ricordare anche una cosa, oggi è l'onomastico di questo mio primo figlio, che ho amato talmente tanto, che si chiama Valentino. Auguri e gli allora, faccio anche gli auguri. Si chiama Valentino Guidi. questa è una lettera meravigliosa che De Gasperi, Alcide De Gasperi, scrive alla moglie dopo la condanna in appello. Lui e la moglie vennero condotti a Roma nel carcere di Regina Coeli la notte dell'11 marzo del 1927. E la moglie di De Gasperi passò lì 11 giorni dividendo il suo mucchio di paglia con altre detenute accusate di omicidio di malcostume. E lui scrisse alla moglie questa lettera che ora vi leggo. Mia cara, ci sono molti che nella politica fanno solo una piccola escursione, come dilettanti, ed altri che la considerano come accessorio di secondarissima importanza, ma per me più da ragazzo era la carriera, o meglio la mia missione. Per mutare, mia cara, avrei dovuto non essere, cioè negare di essere, rinnegare me stesso. Io ti ho sempre letto negli occhi che se fossi stato vile mi avresti disprezzato. Dunque era proprio l'orbita del mio destino. Rimanendo fedele alla mia stella, dovevo percorrere quella fino in fondo. Dunque completamente io mi assolvo, non commisi errori. Sono un uomo, e uomo di passione, e certo ne commisi molti. Qui sta la tragedia del nostro, del mio sacrificio. Comunque vi sono gli uomini di preda, gli uomini del piacere, gli uomini di buona fede. E so che anche tu mi vuoi bene, perché sono fra questi ultimi uomini. Ecco, lui chiede perdono alla moglie perché con questa sua scelta la costringe ad andare in prigione con lui. Ma le dice, io ti amo perché sono così e ti ringrazio di amarmi perché tu mi ami perché io sono così. La trovo meravigliosa. È la verità detta in poche parole, essenziali e bellissime. Paola, adesso abbiamo ritrovato Maria Laura. Maria Laura, scusami, i tempi cominciano a correre. Com'è che ti abbiamo persa? Prego Maria Laura, di cosa volevi parlare? Niente, che l'acqua purtroppo sta provocando tanti danni, però mi auguro che per la prossima estate le persone non debbano soffrire come la scorsa, perlomeno sui castelli romani, guarda, che erano senza acqua quando qui a Roma l'acqua si spreca. Noi abbiamo delle fontane senza rubinetti e vai. E poi se era possibile, oggi nella mia zona, che è quella di Capannelle, si sposeranno due sudamericani, Gerardo Roy Acapeja e Dora Wilma Hito Uscamatia. Oggi che è il giorno di San Valentino, ma nella cappellina dei Santi Cirillo e Metodio, perciò due possono dire extracomunitari o meno, però no, perché adesso hanno il permesso. Meno male. E sarà una bella festa, una bella cerimonia. E lungo amore e lunga vita, grazie Maria Laura, speriamo di ritrovarti presto. Allora Maria Laura, il numero verde 800 24 00 24, fra le tantissime notizie, poi anche questa mi aveva colpito in modo particolare, degli affitti record, no? In 10 anni ci sono stati aumenti fino al 145% a proposito della crisi e poi a proposito anche delle polemiche sul milione di euro a Bonolis e per Sanremo. I canoni maggiori si registrano nel centro di Roma e Milano fino a 2.300-2.250 euro al mese. Come si fa, insomma, a proposito di valutazioni che dicevamo prima? E poi un'altra cosa interessante è questo braccialetto high tech che si sperimenta prossimamente a Genova, il comune di Genova, per donne, anziani e bambini per questioni di sicurezza. È brutto pensare, no, di avere questa specie di orologino, di braccialetto con il quale possono fare chiamate d'emergenza schiacciando un pulsante rosso, soprattutto appunto per le donne che a quanto pare in un paese considerato civile come l'Italia, ma un po' in tutto il mondo in realtà, non sono libere di andare tranquillamente come esseri umani in giro, no? Come se fossero... Leggevo che stanno completando il genoma dell'uomo di Neanderthal in questi giorni per capire quanto è distante dal nostro. Credo che sia pochissimo distante, non ci sono stati grandi passi da questo punto di vista. C'è sempre Paola Severini con noi e c'è anche Valeria Della Valle, la nostra linguista della Sapienza di Roma. Valeria, che parola attribuiresti a questa settimana? Un insieme di notizie, di fatti. Ciao Valeria. Ciao, buongiorno. Naturalmente non sarò molto originale nell'attribuire alla parola amore, alla parola amare e a tutto questo tipo di lessico la parola forse più significativa vista la giornata della quale stiamo parlando. Mi pare proprio di sì. Ecco, anche se naturalmente io ne parlo sempre da un punto di vista particolare, cioè quello di chi studia le parole e di chi confeziona i dizionari della lingua italiana. Che è il tuo mestiere, anche recentemente, poi, no? Appena è stato pubblicato uno nuovo. E infatti, e allora vorrei portare solo questo tipo di riflessione sull'argomento, quanto le parole, anche quelle che riguardano l'amore, il sesso, le relazioni sentimentali, quanto cambino e siano costrette a cambiare in un certo senso attraverso il tempo. E chi fa i dizionari, che deve quindi rappresentare ufficialmente la definizione di quel concetto, di quel sentimento, deve farlo in sintonia col proprio tempo, seguendo l'evoluzione della società, chiaramente. Infatti, quindi amore adesso va rivista un po', beh, la, quindi, il significato. L'abbiamo dovuto rivedere e ti devo dirti che dato che faccio questo mestiere oramai da moltissimi anni, se già all'inizio degli anni 70 una parola come amore, amare, eccetera eccetera, aveva suscitato tra noi allora redattori di un grande vocabolario della lingua italiana appassionate discussioni, e adesso che ho recentemente diretto quello stesso dizionario nella nuova edizione, cos'era Treccani? Ho cercato di dare la soluzione migliore, perché ecco, per esempio una parola come amore, o il verbo amare, o il sostantivo accoppiamento, o la parola coppia, ecco, tradizionalmente, dico solo questo, erano sempre riservate a definire rapporti tra un sesso e il sesso diverso, cioè come se il tipo di sentimento amoroso si dovesse prendere in considerazione quando si definisce solo riguardo a rapporti eterosessuali. Allora tu già solo questa sfera, oppure la parola coppia, ecco, per dirne solo una, che è oggi una parola che va bene con la giornata che celebriamo, è che era riferita solo a fidanzati o sposi e null'altro, ecco, ma la coppia sappiamo, la società è cambiata, si è evoluta. Ecco quindi che insomma la lingua cambia, per fortuna, e riflette tutti i mutamenti che ci sono nel corso del tempo nella società, e questo lo vedo come un fatto positivo. Quindi ecco, nella giornata che celebra l'amore, mi sembra una piccola riflessione su come la lingua insegue, riflette, rappresenta i cambiamenti positivi, quelli di cui parlava Paola Severini, nel nostro mondo e nei nostri costumi. E meno male, grazie, meno male. Grazie Valeria Della Valle. Grazie a voi. Ciao Valeria, buon San Valentino anche a te. C'è Fiora da Roma, o Fiona, non lo so, però abbiamo veramente 30 secondi, credo, mi devi perdonare davvero, il tempo corre. Riesci a dire una battuta proprio? Mi sente? Sì, sì. Ecco, no, niente, volevo dire, parlare su stagioni amore, io ho 79 anni, mio marito 85, le stagioni anche anni fa erano così, perché nel 56 febbraio fece una nevicata a Roma terribile. Senti, la stagione del vostro amore? Ecco, mio marito venne da Genzano a Roma a piedi per vedermi la sera. Se la fece tutta a piedi, Roma Nord poi, perché altro che cioccolatini. questo è amore. Fiona, grazie, mi devi perdonare, ma stiamo andando, ti prego di chiamarmi il prossimo sabato se riesci, qui a Non ci sono più le mezze stagioni. Vi ricordo poi che io ci sono anche sempre poi la domenica a Storielli alle 19, dalle 19 alle 19.30, se volete. Paola Severini, ti abbraccio, ti ringrazio, spero di ritrovarti presto. Ti consiglio di andare sul nostro portale, dove sono andata adesso, perché io non le ricordavo le notizie di oggi, ti devo dire la verità. www.antelipress.org, ci sono molte buone notizie. Meno male. Quindi approvvigionatevi sul sostenere gli ascoltatori. Grazie Paola Severini. Roberta Giordano a questo punto si deve per forza congedare. Vi aspetto prossimo sabato, ma anche domenica qui a Non ci sono più le mezze stagioni.